I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Dopo che la notte del 4 novembre Barack Obama ha vinto quella storica elezione che tutti ricordiamo ed è diventato il 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America per una dozzina di giorni. Il trionfatore di questa storia, che per larghi tratti è ancora incredibile, è rimasto, no, un po' al di fuori della luce dei riflettori, un po' al coperto, naturalmente cominciando ad occuparsi delle questioni organizzative, soprattutto del coordinamento di quello che sarà il suo futuro team di governo. Poi alla fine è venuto alla luce, alla scoperto, e ha cominciato a parlare agli americani in veste di presidente, anche se naturalmente bisogna aspettare il 20 gennaio 2009 affinché la sua presidenza venga ufficialmente inaugurata sulle scale del Campidoglio. Ma quello che vogliamo fare è darvi una specie di sunto, così un po' a braccio, ma che renda l'idea di che cosa è stata questa prima intervista di Barack Obama da presidente eletto. È avvenuta domenica, è andata in onda domenica, era stata registrata venerdì sera nel corso del programma del magazine giornalistico della CBS 60 Minutes, uno dei più apprezzati della comunicazione americana, e l'intervista è stata realizzata da Steve Croft, che è un giornalista di 60 Minutes che ha seguito praticamente passo passo la irresistibile ascesa di Barack Obama. E allora io passo a tradurvi alcuni passaggi di questa intervista. Steve Croft comincia dicendo: allora eccoci qua. Obama dice: eccoci. So here we are. Here we are. How's your life changed in the last 10 days? Croft: com'è cambiata la sua vita negli ultimi 10 giorni? Obama: beh, per quello che devo dire, soprattutto vedo che c'è molta più gente che mi gira intorno. Questo è sicuro. D'altro canto, sto dormendo nel mio letto da 10 giorni a questa parte, il che per me è un lusso. Michelle si sveglia sempre più presto di me, e ascoltare lei che si muove nella stanza o le ragazze che arrivano e saltano sul letto, beh, questo è formidabile. Croft: che cosa rende questo più gradevole della campagna elettorale appena conclusa? Obama: beh, c'è una grande differenza. Durante la campagna elettorale è stata una costante frenesia, una costante eccitazione. Adesso improvvisamente sono diventato residente, fermo, ma naturalmente le questioni, i problemi sono loro a venire da te, e mi rendo conto che c'è un sacco di lavoro da fare. Abbiamo un sacco di problemi, un sacco di sfide molto importanti. Croft: ci sono stati momenti nei quali ha detto: ma io come farò? Obama: beh, è piuttosto sorprendente, ma io mi sento come se avessi sempre saputo di dover fare tutto questo. Ciò mi rende in un certo senso calmo. Direi che le sfide che abbiamo di fronte sono enormi e per di più sono anche numerose, e ci sono delle volte nel corso della giornata nel quale mi viene a pensare: beh, ma da dove comincio? Croft: e su che cosa si è concentrato in questa settimana? Obama: su un paio di cose. Numero uno, credo che sia importante assestare una squadra di lavoro sulla sicurezza nazionale, perché i periodi di transizione sono momenti di potenziale vulnerabilità rispetto a un attacco terroristico. Noi vogliamo essere sicuro che ci sia una transizione la più fluida possibile, soprattutto sul piano della sicurezza nazionale. E poi, naturalmente, l'economia. Parlando ai miei principali consulenti economici, stiamo cominciando a tirare fuori l'argomento di come creare nuovo lavoro, dove e in che modo riportare l'economia sui giusti binari, che cosa va fatto sul breve ma anche sul lungo termine su problemi come l'energia e la sanità. e come tutte queste cose vadano poi a un certo punto presentate al Congresso. Croft è in contatto con Paulson nei termini sulla questione di come quei famosi 700 miliardi di dollari debbano essere usati. Obama: bene, Paulson ha lavorato instancabilmente in circostanze difficilissime. Noi siamo nel pieno di una crisi senza precedenti, o almeno qualcosa che non si è mai visto da queste parti dalla Grande Depressione. Io credo che Hank Paulson sia stato il primo a capire che probabilmente non tutto ha funzionato nel modo in cui speravamo che funzionasse, ma io sono meno interessato a guardare all'indietro che a guardare in avanti. Croft, una volta che sarà presidente operativo, quali sono le cose che intende cambiare? Beh, dobbiamo ancora vedere quali saranno le cose che capiteranno nei prossimi due mesi, prima del mio insediamento. Un'area della quale sono molto preoccupato, ne ho già parlato in pubblico, è che ancora non abbiamo focalizzato esattamente la crisi immobiliare. Che cosa sta succedendo a chi possiede una casa, soprattutto se ciò che succede va nella direzione che vogliamo? Abbiamo strumenti per riuscirci. Abbiamo avviato una negoziazione tra le banche e gli istituti di credito in modo che la gente possa mantenere la propria casa, e questo otterrà un impatto sull'economia più in generale. E voi sapete, una cosa che sono determinato a fare è al più presto arrivare alla Casa Bianca, allo Studio Ovale, con una chiarezza attorno alla questione immobiliare. Torniamo a analizzare alcune delle battute che il giornalista della CBS, Steve Croft, e il presidente eletto Barack Obama si sono detti nel corso della intervista di 60 Minutes, la prima intervista andata in onda sulla CBS, la prima intervista di Barack Obama da presidente eletto degli Stati Uniti d'America. Where does capturing or killing Osama bin Laden fall? I think it is a top priority for us to stamp out Al-Qaeda once and for all. Pensa che catturerà o ucciderà Osama bin Laden? Obama risponde: io credo che sia una priorità per noi liberarci di Al-Qaeda una volta per tutti. Io credo che catturare o uccidere Bin Laden sia un aspetto critico del liberarsi, dell'operazione liberarsi di Al-Qaeda. Non è solo un simbolo, è anche il capo operativo di un'organizzazione che sta pianificando attacchi contro bersagli americani. Chiede Croft: quanto pensa di essere vicino ad aver deciso le personalità incluse nel suo gabinetto? Obama risponde: beh, credo di avere le idee piuttosto chiare su ciò che sto cercando, ma ci vuole un po' di tempo perché le cose si sistemino. Croft chiede: quando comincerà a fare i primi annunci? Obama risponde: subito. Croft: la prossima settimana? Subito, dice ancora Obama. Croft: lei ha incontrato il senatore Clinton? Obama dice: sì. Croft: fa parte dell'elenco per una posizione nel suo gabinetto? Obama: io direi che Hillary Clinton è qualcuno di cui io ho bisogno come consigliere per la sua esperienza. È una delle persone di maggiore intelligenza ed esperienza nel settore pubblico di cui disponiamo. A parte questo, caro Steve, non ti dirò altro. E Croft domanda: ci saranno dei repubblicani nel suo gabinetto? Obama risponde: sì. Croft domanda: più di uno? Obama risponde: ho detto che non saprai altro da me. Croft ancora: ha parlato ad alcuni ex presidenti? Obama dice: sì, l'ho fatto. Croft: ha avuto qualche buon consiglio? Obama: sono stati tutti estremamente gentili, ma io credo che tutti siano pronti a riconoscere che questo è un lavoro di grande loneliness, di grande solitudine, no? Puoi avere dei consigli, puoi avere delle indicazioni, ma alla fine tu sarai la persona che dovrà prendere le decisioni. E credo che ora mi sto accorgendo di tutto questo. Croft: che cosa sta leggendo in questi giorni? Obama: ma più che altro un sacco di rapporti. Croft: rapporti? Obama: sì, sto spendendo parecchio tempo a leggere i rapporti che mi vengono presentati, e poi sto leggendo Lincoln. C'è quella fiducia e quella umiltà nel suo approccio al lavoro, ancora prima che fosse presidente, che sento che potrebbe essermi davvero utile. Croft: beh, ma Lincoln mise alcuni suoi nemici nella sua amministrazione. Obama dice: sì, lo ha fatto. Croft: è qualcosa che anche lei sta considerando di fare? Obama: ma io credo che Lincoln prima di tutto sia stato un uomo molto saggio. Croft: ha letto qualcosa attorno alla Grande Depressione? Ha letto qualcosa di recente attorno a Franklin Delano Roosevelt? Obama: ma effettivamente sì. C'è un nuovo libro sui primi 100 giorni di Franklin Delano Roosevelt, e quello che si vede in Roosevelt, e che spero che io e la mia squadra sapremo imitare, è che non sempre le cose vanno nel senso voluto, ma che pianificare con chiarezza, esprimere una volontà di ottenere risultati è importante, ed è un esperimento a cui la gente che lavora insieme si deve sottoporre. Io credo che sia esattamente questo che l'America si aspetta da noi. Non si aspettano dei miracoli. Io credo che se parli con l'americano medio, lui ti dirà: beh, lo sappiamo, stiamo in brutte acque, in tempi molto difficili, ma abbiamo avuto tempi difficili prima, e noi non pensiamo che il presidente possa fare uno schiocco, no? Possa far schioccare le dita ed improvviso tutto funziona meravigliosamente. Ma quello che ci dobbiamo aspettare è che questo signore sia esattamente dalla parte nostra. Dobbiamo aspettarci che lavori duramente per noi. Dobbiamo aspettarci che pensi agli americani della strada, ai cittadini qualunque, non solo ai ricchi, ai potenti. Dobbiamo aspettarci questo. Se qualcosa non funziona, dobbiamo aspettarci che continui a provare finché le cose non andranno nel modo dovuto. Questo è il tipo di senso comune, di approccio normale che credo che mi aspetti allorché prenderò posto nello studio ovale. Croft infine gli chiede, Obama farà molti discorsi, dobbiamo aspettarci gli americani si devono aspettare di vederlo spesso apparire per parlare alla televisione o alla radio? Obama risponde, ma io non sono sicuro che gli americani vadano in cerca di troppi discorsi, io credo che si aspettino da me soprattutto azione, ma una delle cose che credo sia importante è che io sia capace di spiegare al popolo americano che cosa sto facendo e perché lo sto facendo. Questa è una cosa che credo che tutti i grandi presidenti sono stati capaci di fare, da Franklin Delano Roosevelt a Lincoln, da John Kennedy a Eisenhower. Io credo che erano tutte persone capaci di dire questa è la direzione che noi stiamo prendendo, questo è perché ciò che stiamo facendo è importante, ecco quali sono i possibili pericoli, ecco quali sono le sfide a cui andiamo incontro, ma alla fine tutto ciò ci condurrà verso una America migliore e io voglio essere sicuro alla fine che sto riuscendo a ricreare un legame di fiducia, una delega fiduciaria tra la presidenza e la cittadinanza americana, che è ciò che credo sia andato perduto. Allora, speriamo di avervi fatto cosa gradita, così riassumendo, traducendo a braccio alcune delle battute che il giornalista Steve Croft della CBS e Barack Obama come presidente eletto si sono scambiati. Ripeto, la prima intervista, la prima uscita pubblica di Obama da presidente eletto, è andata in onda ieri sera sulla CBS, sul network nazionale americano. Adesso, dal momento che nella seconda parte del programma non potremo andare in onda in diretta per dei motivi di carattere tecnico, abbiamo pensato di farvi cosa gradita riproponendovi una conversazione con Federico Rampini, il giornalista di Repubblica, nonché autore di numerosi volumi, l'ultimo dei quali appunto ci è venuto a presentare in studio qualche settimana orsono, e proprio a questo riguardo abbiamo a suo tempo realizzato questa intervista. Il libro si chiama 100.000 punture di spillo, è stato scritto da Rampini a quattro mani con Carlo De Benedetti, e nell'ambito della conversazione sentirete anche molto parlare di Barack Obama, di cui Rampini peraltro è apertamente un sostenitore, e ne sentirete parlare in termini ancora così al condizionale, no? Perché l'elezione doveva andare ancora in scena e poi le cose sono andate come sono andate, ma invece il libro di Rampini è disponibile in libreria e le esperienze e gli argomenti di cui si occupa sono perfettamente di attualità. A risentirci. Alla vigilia dell'ultimo congresso del Partito Comunista Cinese, ottobre 2007, uno storico dell'Accademia delle Scienze Sociali è stato invitato a Zhongnanhai, l'inaccessibile residenza dei massimi leader del regime, a pochi metri dalla città proibita. Il tema del seminario a porte chiuse per i vertici della nomenclatura era «Come sono cresciuti i più importanti imperi della storia e le cause della loro decadenza». A convocare quella sessione di studio è stato Hu Jintao, segretario generale del partito e presidente della Repubblica Popolare. Da quando Hu è diventato il numero uno del regime, nel 2002, ha invitato 43 volte degli storici a tenere conferenze nel Palazzo del Potere e sempre sullo stesso tema. Mentre nel linguaggio ufficiale Hu Jintao pratica la modestia confuciana, ama definire ancora la Cina una nazione emergente, persegue una convivenza armoniosa nei rapporti fra gli stati, in realtà il governo si allena per un ruolo di leadership. Il capo della nazione più popolosa del pianeta vuole capire i punti di forza degli imperi passati ed evitare di ripeterne gli errori. Allora, giusto un assaggio in uno stimolante capitolo affresco che si chiama Oriente, visioni neo-imperiali, dove appunto c'è questo Hu Jintao che parla della Cina come una nazione emergente, una cosa da mettere in connessione secondo me con l'intervista a Newsweek di Wen Jiabao, che a domande dell'intervistatore Fariz Zakir rispondeva: ma per carità, noi siamo un paese che ha tutto da imparare, siamo qui per guardare. Comunque, tutto ciò tratto da 100.000 punture di spillo, il libro firmato a sei mani da Carlo De Benedetti, Federico Rampini e Francesco Daveri. Noi abbiamo il piacere di avere Federico Rampini in studio qui con noi per parlare naturalmente del libro, ma di tante altre cose. Benvenuto, buon pomeriggio Federico. Grazie, buon pomeriggio. Un libro che ha un titolo che naturalmente guarda in giro per il mondo, ma poi alla fine guarda dritto negli occhi magari noi connazionali che lo leggiamo, perché il sottotitolo recita «Come l'Italia può tornare a correre», e si capisce che la premessa da cui parte Federico è che il paese di inventori e navigatori di cui siamo orgogliosi membri, no? Forse non è però di psicologi del contemporaneo, sembra di capire, cioè c'è una certa tendenza a farci un po' del male da soli o a non essere abbastanza rapidi nei tempi di reazione. È così, Federico? Sì, sicuramente una parte del libro serve a frustare, diciamo così, certi vizi nazionali di provincialismo, di ripiegamento su noi stessi, ma anche di eccessivo pessimismo, di sfiducia nelle nostre risorse. Questo è un libro che in realtà contiene parecchia speranza. Da una parte si guarda al nuovo mondo che sta emergendo, la Cina sicuramente ne fa parte, e io credo che uno degli effetti della gravissima crisi finanziaria nata negli Stati Uniti sarà quella di accelerare il declino dell'impero americano e quindi l'ascesa di queste nuove potenze emergenti. Però poi una buona parte del libro 100.000 punture di spillo è dedicato a spiegare perché l'Italia può farcela benissimo in questo nuovo mondo, ha delle chance da giocarsi, e ognuno di noi, per questo il titolo 100.000 punture di spillo, ognuno di noi può fare già qualcosa subito nelle sue scelte quotidiane, cioè non dobbiamo aspettare per forza la grande catarsi, il grande rinnovamento della classe dirigente nazionale, le grandi riforme. Ci dobbiamo chiamare in causa anche noi. Ma fammi un esempio pratico. Ma esempi pratici, il libro ne è pieno, la conclusione soprattutto è tutta su questo. Le scelte che fanno i giovani che in questo momento studiano, certo. Che lingue studiano, quanto si applicano a studiare, certo, lingue straniere, certo, quanto si dedicano a colmare certe lacune nelle loro conoscenze di matematica o di materie scientifiche. L'atteggiamento verso il sistema scolastico non dipende soltanto dal ministro Gelmini, dipende anche dai giovani e dipende dai genitori, dalle famiglie. Questa è sicuramente una lezione che io traggo dalla mia vita in Asia, dove il rispetto per l'istituzione scolastica, per la meritocrazia, per la selezione scolastica è fondamentale, è una chiave per capire che cosa sta succedendo in Cina, ma anche in India. Quindi non soltanto parlare del mondo che cambia, ma cercare di essere anche empatici con questo cambiamento, sì, muoversi nella sua direzione. Oh, questo è un libro pubblicato tra l'altro da Mondadori, Strade Blu, uscito oggi in libreria, quindi a poche ore di vita, di 309 pagine, si chiama 100.000 punture spillo per vergarlo, immagino ci siano voluti diversi mesi, e quindi quello che è successo solo negli ultimi 15 giorni, che più che una puntura di spillo è stata una mina sotto la sedia, no? Questa improvvisa paura complessiva, come si va a collocare? In un certo senso è un fantasma che già aleggia nelle pagine del vostro libro o è già il giorno dopo? No, il libro in un certo senso è già il giorno dopo, perché il libro riflette su come dobbiamo ripartire da qui, cioè abbiamo attorno per certi aspetti un panorama di macerie, certo. Siamo in mezzo, non dimentichiamolo perché si parla troppo delle banche, siamo in mezzo a una gravissima recessione mondiale. Il libro riflette sulle mosse che possiamo fare subito per preparare un futuro migliore, però la crisi finanziaria nata negli Stati Uniti, nata in particolare all'origine dai mutui subprime, c'è già nel libro, perché è una crisi che ormai ha 16 mesi di vita, cioè soltanto alcuni provveduti banchieri italiani hanno potuto fare finta di essere sorpresi. Quella è una crisi di cui io ho cominciato a occuparmi da giornalista sulle pagine di Repubblica, me lo ricordo perfettamente perché conservo il mio archivio, certo, alla fine di giugno del 2007, quindi certo, non è stato un fulmine a ciel sereno. Certo. Una sensazione che si ha è quella che al tempo stesso esiste uno scollamento, no, profondo tra chi queste cose le sa perché è parte di un inner circle, anche soltanto dell'informazione, e chi è invece semplicemente un consumatore, magari appunto di informazioni, un lettore, il cittadino Main Street, come dicono in America. Per esempio, questo improvviso miglioramento dei panorami, no, degli orizzonti delle ultime 48 ore, con la stampa, l'informazione, la stampa online, le televisioni, che in un certo senso hanno una capacità, sembra un po' bidimensionale, di essere solo barometro, quello che tu hai appena detto, non viene quasi mai detto, no? Quasi mai spiegato. Non pensi che questo sia anche in un certo senso una corresponsabilità in una situazione di grande confusione che poi regna? Beh, sicuramente adesso sembra mezzi, tutto va bene nelle ultime 48 ore, no? Si passa da un eccesso all'altro. Esatto. Io sarei molto cauto a dare a queste due giornate, anzi per ora, tenuto conto che Wall Street è ancora aperta, certo, una giornata e mezzo di certo, euforia sui mercati, starei molto attento a non dargli dei significati di lungo periodo, a non estrapolare, anche perché, ripeto, un conto è la crisi finanziaria, un conto sono queste terribili epidemie di titoli tossici che hanno colpito le banche nel mondo intero, altro è la tempesta che sta infuriando nell'economia reale, che non è prossima a finire. È vero che a volte i mezzi di informazione hanno tendenza a dare un'informazione un po' unidimensionale, un po' appiattita sull'immediato. Io credo che invece una delle sfide della nostra professionalità deve essere proprio quella di fornire un valore aggiunto di analisi, di approfondimento, di retroscena, anche perché viviamo in un'epoca in cui altrimenti il giornalista rischia di diventare superfluo. Quando nel mondo ci sono un milione di blog, io, Federico qualcosa, Rampini, e diciamo, noi come categoria, certo, abbiamo qualcosa di più da dire, certo, o se no l'informazione immediata è diventata una commodity, una, certo, materia prima, certo, come, certo, la soia, il, certo, riso o il, certo, petrolio. Un'ultima cosa, tornando ancora a 100.000 punture di spillo, il libro che hai appena pubblicato, si ha come la sensazione che le cose, il tuo libro mi sembra sostenga proprio questo, stiano in modo più complicato di quanto faticosamente un po' tutti abbiamo imparato a capire, quando per esempio attraverso l'informazione è passato il messaggio che l'imperialismo americano non era più un dato di fatto, che c'erano potenze emergenti di grande grinta, di grande aggressività, che si stavano ridisegnando gli scenari. Abbiamo imparato a tener conto della Cina, dell'India, tu ne hai scritto tanto. In realtà il tuo libro sembra dire guardate, le cose sono in modo ancora più complesso, più ricco, più organico, è così? Sì, le cose sono più complesse, più ricche e per fortuna anche meno negative per noi. Più complesse intanto perché l'arco dei paesi emergenti, ma emergenti con la E maiuscola, cioè che in parte già emersi, è diventato sempre più ampio, cioè il fenomeno Cindia ha trascinato con sé lo sviluppo di altre aree del mondo, in Asia naturalmente, ma anche altrove, dal Golfo Persico all'America Latina, a una zona per noi strategica su cui insistiamo molto nelle conclusioni di questo libro, perché riguarda proprio le possibilità di rilancio dell'Italia, che è la sponda sud del Mediterraneo, la zona del mondo che ha avuto, per esempio, che ha avuto il massimo afflusso di investimenti stranieri dopo la Cina, è il Mediterraneo Sud, cioè quella zona che va, diciamo, da Marrakesh fino alla Turchia, per intenderci, no? Quindi da questo punto di vista è ancora più vasto il nuovo mondo che sarà protagonista del XXI secolo. E le cose sono più complesse anche in senso positivo, nel senso che non è vero che la ascesa di queste nuove potenze ci impoverisce e non è vero che sono solo loro in questo momento ad avere il vento in poppa. In realtà questi paesi sono pieni di problemi, ne cito uno a caso, proprio l'ultimo scandalo in Cina del latte intossicato, certo. I bambini morti, decine di migliaia di neonati ricoverati negli ospedali. Lì c'è un problema di qualità che in realtà ha dietro un problema ancora più profondo di esportazione delle nostre regole verso questi paesi. Ecco, una degli assi portanti del futuro dell'Italia è proprio esportare qualità, esportare regole. Bene, questi sono alcuni spunti di 100.000 punture di spillo, il libro di Federico Rampini con Carlo De Benedetti e Francesco Daveri. Adesso una breve interruzione per le notizie del traffico, poi parleremo ancora con Federico, magari ci spostiamo in America, qualche ragionamento elettorale. 349-238-6666 se avete domande per il nostro ospite. A tra poco. We'll be right back. Allora, eccoci di nuovo qui con Federico Rampini, che ci ha portato un bambino appena nato, diciamo così, un libro appena uscito, 100.000 punture di spillo, come l'Italia può tornare a correre, tra l'altro presentazione in giro per il paese nei prossimi giorni, a Roma tra una settimana, giusto? Sì. Bene. E però scenari americani anche per Federico, che tra l'altro a questo punto, per amore o per forza mi sembra di capire, è stato rimandato dall'altra parte rispetto alla Cina per seguire la crisi e suppongo anche per far parte del contingente del quotidiano per cui lavora la Repubblica in occasione delle imminenti elezioni. 3 settimane alle elezioni, 24 ore a quest'ultimo dibattito che si annuncia una specie di match a parte, ha un po' seguito le ultimissime dinamiche, soprattutto questo doppio binario su cui sembra correre ormai la campagna elettorale. Obama ha barbicato, no, alle issue, ai temi, alle proposte, ai programmi, dall'altra parte sotto nei sondaggi un partito repubblicano che ha deciso di giocarla sul personale, cioè di mettere tutti i bersagli possibili sulla personalità, sul personaggio Obama. Che ne pensi? Sì, ma intanto confermo che ho passato l'ultimo mese negli Stati Uniti soprattutto a occuparmi di crisi delle banche, ma ho assistito naturalmente ai due primi dibattiti e devo dire che all'inizio, soprattutto nel primo dibattito, siccome confesso che sto per Obama, ho sofferto tantissimo, perché sembrava un dibattito dove uno solo, sembrava un match di box dove uno solo dei due pugili sferrava pugni e l'altro stava a guardare. Elegantemente danzava. E mi sono dovuto ricredere appena sono usciti i sondaggi dopo quel dibattito, perché il dibattito era stato un trionfo per Obama. Lui doveva proprio evitare di scendere sul terreno della rissa, anche perché siccome c'è sullo sfondo questo problema razziale. Guai. Quanto sullo sfondo, secondo te? Alcuni dicono, ci sono stati fatti degli studi molto approfonditi su passate candidature, non presidenziali naturalmente, ma seggi di parlamentari, seggi senatoriali, dove nei sondaggi, quando c'è uno dei due candidati che è nero, bisogna togliere, a quel che dicono i sondaggi, fino al 5, 6, 7%. Mm. Perché ci sono degli elettori bianchi che non osano confessare neanche a sé, non solo all'intervistatore che fa il sondaggio, ma neanche a se stessi, di avere un problema razziale. Famoso effetto Bradley. Esatto, l'effetto Bradley. Quindi quello che Obama deve evitare, per questo nei sondaggi può sembrare lui così etereo, un po' placido, lui non deve mai raffigurare agli occhi dell'elettore bianco sospettoso la caricatura del giovane nero arrabbiato, il giovane radicale, quello che negli anni 60 o 70 a cui cercano di associarlo. Disperato, insomma. Detto questo, al momento il tentativo repubblicano di trasformare questi duelli in una specie di tiro al bersaglio sulla personalità di Obama, usando le stesse tecniche demoniache di Karl Rove, consigliere di George Bush, le calunnie, non sta funzionando. Cioè il peso della crisi economica è talmente forte che gli americani sono stufi del vecchio discorso politico, non sono più talmente interessati a seguire quel genere di polemiche sulla personalità di Obama, vogliono sentire proposte, e Obama proprio ieri è uscito con questo grande piano anti-recessione, mentre McCain obiettivamente, quando parla di economia, dice delle cose strampalate, a dire poco. Bene, staremo a vedere domani gli aggiornamenti sull'ultimo dibattito, però io gli ultimi 3 minuti di trasmissione, 2 se non sbaglio, vero, li dedicherei almeno a qualche domanda delle tante, Federico, che ti rivolgono gli ascoltatori. Parto da un altro Federico, da Roma, che ti scrive: a Rampini chiedo quali tra gli altri paesi emergenti che ha appena citato nel Sud America vede più in ascesa, Brasile o Argentina, ad esempio? Brasile. Hai un'idea su questo? Brasile, senza dubbio. Poi ancora Gabriele dice: vedo proprio male il nostro paese a confronto con altri paesi emergenti, anche perché abbiamo una grossa palla al piede, la politica. Che ne dici di questa? Ma ecco, il nostro libro 100.000 punture di spillo spiega proprio che non bisogna fissare la propria attenzione in modo ossessivo su quella palla al piede che è la politica, perché ci sono tanti esempi passati di paesi che hanno saputo operare una rinascita. Io penso all'Inghilterra, quello che era l'Inghilterra degli anni 60. Nel momento... È un problema di vertice, è un problema di base? Siamo tutti ancora troppo politici? Intanto la base può cominciare a lavorare da sola, perché il rinnovamento di una classe dirigente nazionale si prepara anche dal basso, con i comportamenti della società civile. Per esempio, ricostruire dei sistemi di valori nuovi è una cosa che accade nella società civile prima ancora che nelle classi dirigenti. Ultima, poi dobbiamo chiudere, vediamo. Andrea da Como, condivido ciò che lei diceva alla trasmissione Anno Zero sugli Stati Uniti e sulla loro critica situazione economica che loro stesso hanno creato esportando un debito incredibile. Condividi, Federico? Sì, gli Stati Uniti purtroppo hanno ancora questo privilegio sovrano che nel Medioevo si chiamava il diritto di signoraggio, cioè sono l'unico paese al mondo che ha una moneta veramente universale che può risolvere i suoi problemi stampando moneta, perché i dollari costituiscono ancora i 2/3 delle riserve centrali, delle riserve di tutte le banche centrali del mondo. Per questo purtroppo una malattia come quella nata dai subprime in questo momento è una malattia mondiale attraverso l'esportazione dei debiti americani. Senti, questa gliela devi per fedeltà, un tuo lettore da 30 anni, insomma, da 10 anni, ma ne ha 30, chiede: è possibile che un blogger che scrive con grande passione possa raggiungere un giorno il dorato mondo del giornalismo? Ma certo, in America oggi ci sono dei blog che sono autorevoli quanto il New York Times. Certo. Penso al famoso blog di Arianna Huffington, a Los Angeles, che è diventato veramente un'autorità nel campo della politica. Quindi, caro Giacomo, ottimismo e molti ringraziamenti invece a Federico Rampini, che vi ricordo con Carlo Benedetti e Francesco Daveri firma 100.000 punture di spillo da oggi in libreria. Grazie Federico. Grazie. Questo è già Frasumin di oggi, io sono Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Pietro Lacorte, la mail a jeffersonming@radio24.it, la replica del programma stasera alle 9, in diretta come sempre domani alle 4 qui da Radio 24. Thank you.